Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, siamo arrivati, sono le 11.08, Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, buongiorno da Nicoletta Carbone, andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Menisco, perché si rompe e come si ripara? Lavaggio nasale, un gesto semplice ed efficace, la ricetta del giorno. Menisco, una cartilagine sempre sulla cresta dell'onda. In questa settimana la scena è stata occupata da quello di Buffon, ora tocca al vostro, che personalmente mi interessa di più, anche perché il portiere della Juventus è sicuramente in ottime mani. E chiedo conferma al professor Castellacci, responsabile medico della Nazionale, direttore del Dipartimento di Ortopedia e Medicina e Traumatologia dello Sport all'ospedale di Lucca. Buongiorno professor Castellacci. Buongiorno a voi. Allora, questo menisco di Buffon che ci ha fatto preoccupare, come sta? Il menisco è sempre là. Sì. Come ho avuto già modo di dire ai vostri colleghi, Gigi soffre da alcuni mesi di questo problema al menisco esterno, col quale però è riuscito a convivere per questi mesi, ma in accordo anche con i medici della Juventus abbiamo concordato che il giocatore sarebbe più opportuno che si operasse per evitare complicazioni al ginocchio stesso. Perché non ha molto dolore, vero professore? No, vede, se vogliamo entrare un attimino in merito, il menisco esterno rispetto a quello interno è quello che si muove meno all'interno dell'articolazione del ginocchio. Noi diciamo biomeccanicamente è meno mobile, quindi avendo meno sollecitazioni dà meno fastidio. Poi il ruolo di portiere è un ruolo particolare in cui si fanno dei movimenti particolari e anche questo ha portato ad avere meno sintomatologia dolorosa e quindi il ragazzo ha potuto convivere questi mesi tranquillamente senza disturbi, altrimenti saremmo arrivati all'intervento prima. Professore, comunque stiamo parlando di un atleta e molto spesso ci si identifica con gli atleti, non considerando che hanno proprio una struttura muscolare assolutamente diversa. Ha perfettamente ragione. Cioè, gli atleti sono aiutati rispetto alle persone tra virgolette normali dal fatto che hanno un grande tono muscolare e chi ha un tono muscolare maggiore sollecita meno il ginocchio. Nelle persone come noi, diciamo, no, forse lei ha la struttura di un atleta, non lo so. Magari. Comunque sia, se noi abbiamo una muscolatura più debole, sovraccarichiamo più il ginocchio e quindi avendo un disturbo di questo genere lo risentiamo molto di più. Professor Castellacci, io la ringrazio per essere stato con noi. No, è stato un piacere. Tra l'altro lei vive in una città magnifica perché Lucca è una delle mie città preferite. Bene, è molto fortunato. L'aspetto qui a Lucca. Verrò. Grazie professore, grazie, buona giornata. Anche a voi. Allora adesso ci occupiamo dei nostri menischi che non finiranno mai sui giornali ma che ci sono ugualmente cari. 800 24 0024, cerchiamo di capire come si può fare prevenzione, cosa fare in caso di lesione e soprattutto quali sono le opportunità che la chirurgia mette oggi a disposizione. Se quindi avete un menisco malandato, chiamateci, ma mi servono anche le storie di chi il menisco non ce l'ha più. Come sta il vostro ginocchio? Tiene bene o si lamenta? Oggi in studio con me ho il dottor Rodolfo Tavana. Buongiorno. Nicoletta, buongiorno e buongiorno a tutti. Ortopedico che si occuperà del nostro ginocchio, sì. Soprattutto del nostro menisco. Dovrei parlare al plurale perché i menischi sono due per ogni ginocchio, come abbiamo già anticipato con il professor Castellacci, e i menischi permettono proprio di ammortizzare il peso e anche il movimento, è così? Sono, sì, degli ammortizzatori, così sono stati più volte definiti. Sì, ha usato il termine giusto. I menischi fondamentalmente hanno due funzioni importanti, sono degli stabilizzatori, perché con i loro agganci laterali riescono a stabilizzare meglio la struttura del ginocchio, e cosa più importante, sono degli ammortizzatori, cioè il peso del corpo grava su questo menisco che funge quindi da cuscinetto protettivo tra due ossa che sennò interfaccerebbero. Normalmente, per far capire questo concetto in termini pratici, basterebbe con una nocca picchiarsi sullo zigomo e basta picchiare leggermente e si avverte subito un senso di dolore e di fastidio. Questo è quello che avverrebbe se noi non avessimo il menisco. Sto provando, è vero. Senta, dottore, ma se il menisco si rompe, che cosa, quali sono i sintomi che avvertiamo? Subito dolore, gonfiore, oppure il ginocchio si blocca? Sì, noi abbiamo normalmente un evento traumatico. Mi riferisco soprattutto ai calciatori amatoriali, piuttosto che ai ragazzi. Sul giovane è più difficile. Comunque può capitare che si abbia un movimento anomalo del ginocchio che non va a danneggiare strutture importanti come i legamenti, quindi è un trauma tutto sommato contenuto, e io avverto dolore. Normalmente si esce dal campo per questo dolore, cioè non è sempre un qualcosa di così eclatante. Il giorno dopo mi ritrovo il ginocchio gonfio. Questo è quello che capita spesso nella maggior parte delle lesioni meniscali nei giovani, relativamente giovani calciatori o nel calciatore amatoriale già avanzato nell'età. Ecco, quindi il gonfiore è sicuramente un indice di aver rotto un menisco, però anche qui non dobbiamo prendere il gonfiore come l'unico elemento importante per definire ho un menisco rotto. Cioè molto spesso noi sentiamo parlare di menisco rotto, quindi di lesione meniscale, sì, quando invece è una sindrome rotulea, quindi ossia tutt'altra cosa, un osso che è la rotula che col suo sfregare sull'osso sottostante crea dei dolori che spesso simulano la lesione meniscale. Quindi direi che non bisogna fare di ogni erba un fascio. Esatto, eh? Esatto, c'è un po' la tendenza di ogni gonfiore un menisco lesionato. Sì, esatto. Senta, dottor Tavana, Buffon aspetterà ad occuparsi del suo menisco a dicembre, nella pausa, no? Approfittando della pausa di Natale. Ma questa soluzione è concessa solo a ginocchia speciali oppure è una filosofia di pensiero che si sta sempre di più affermando? Sì, penso che oggi la tendenza moderna, le linee guida che negli Stati Uniti ci stanno fornendo sono proprio queste. Ad esempio l'over 50, cioè la persona normale sopra i 50 anni ma sportiva. Oggi abbiamo dei cinquantenni sportivi che giocano ancora a calcio. 50 anni fa i fanno le maratone. Fanno le maratone, cioè esasperano un po' i toni. E ecco, a volte capita appunto che vadano a danneggiare il menisco, cioè questo ginocchio che è già un po' usurato, consumato dagli anni, di fronte a degli eventi microtraumatici, non necessariamente anche qui eclatanti, si va a comunque creare un danno. Ecco, le linee guida solo che tu devi operare sopra i 50 anni il menisco solo se o c'è il ginocchio bloccato, il ginocchio particolarmente gonfio o un dolore insopportabile. Viceversa è meglio tenerlo, cioè con dei programmi riabilitativi e fisioterapici si è visto che si crea un assestamento per cui dopo un mesetto, due mesetti, il paziente, chiamiamolo così, sì, anche sportivo, riprende la sua attività. Lei però ha toccato un punto estremamente importante. Dobbiamo renderci conto che 50 anni sono passati e l'indicazione che la medicina sullo sport fornisce sono, ok, va bene, attività fisica fondamentale per la salute, ma rispettiamo un po' la carrozzeria, quindi delle esercitazioni in scarico, soprattutto se abbiamo delle ginocchia un po' non allineate, delle ginocchia già un po' usurate, non necessariamente con un'artrosi così importante da richiedere la protesi, ma un principio di logorio. Ecco, in questi casi l'esercizio in scarico non solo è indicato, ma è benefico. Abbiamo dei dolori articolari a volte con un menisco un po' usurato, un po' consumato, con delle piccole fissurazioni, soprattutto nella porzione posteriore del menisco, quindi quella meno sollecitata dal carico diretto. In questi casi l'esercizio in scarico. Cos'è l'esercizio in scarico? La bicicletta e il nuoto. Quindi se avete un problema di menisco che è un po' usurato dagli anni, vi dà qualche piccolo problema e volete approfittare oggi del dottor Tavana per così capire che cosa, come lo si può riabilitare, posso usare questo termine? Certo. Approfittatene. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, 349 238 6666 se invece preferite come Angela mandarci un messaggio. Una mela al giorno. Ieri ci siamo occupati della salute della nostra bocca, oggi vogliamo occuparci del nostro naso. Con lo sbalzo di temperatura, molti di noi sono già raffreddati, allora io vorrei parlare delle prime cure prima di andare dal medico, insomma sapete che ci attrezziamo anche noi. La prima cosa che viene in mente è cercare di decongestionare il naso, insomma dargli un pochino di benessere. E allora ne parliamo con il professor Marco Benazzo, associato all'Università degli Studi di Pavia, la clinica otolino-laringoiatrica alla Fondazione San Matteo di Pavia. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. Professore, quando io e lei ci sentiamo siamo sempre raffreddati, sia io che lei. È vero. Allora, senta professore, io vorrei chiederle se in questo momento, quando insomma iniziamo ad avere il naso che cola, o ci sentiamo un po' il naso tappato, insomma inizia a darci qualche problema, un bel lavaggino nasale potrebbe in qualche modo aiutarci. Sì, sicuramente il lavaggio nasale è benefico perché, detto in parole molto molto semplici, il naso va lavato, va tenuto pulito, bisogna fare in modo che il muco che si forma causato dal processo infiammatorio non rimanga a livello nasale. E abbiamo due possibilità: il lavaggio nasale e la irrigazione nasale, che spesso sono misconosciuti e vengono confusi vengono confusi e non si sa qual è la differenza. La proviamo a dire noi oggi? Il lavaggio nasale sono quei preparati che si trovano in commercio, i cosiddetti spray nasali, ce ne sono di vario tipo, contenente varie soluzioni, la più semplice è la soluzione salina, sì. Quella che si usa dai bambini, dall'età pediatrica fino agli adulti, e sono praticamente quelle bombolette dove contenenti la soluzione, che vengono praticamente, si usa uno spray e vengono praticamente, vanno a lavare il naso. Sì. Qual è l'effetto benefico? L'effetto benefico è che la pressione necessaria data dalla bomboletta e dall'eccipiente riesce a far arrivare nella parte anteriore e superiore del naso, e quindi si crea si pulisce in questo modo, in modo artificiale, il naso. Però il problema di queste lavaggi nasali è che nelle forme più avanzate, quando c'è proprio la fase secretiva, la fase catarrale importante, queste sostanze non arrivano nella parte posteriore del naso e quindi non ottengono un effetto completo. L'irrigazione nasale invece è proprio un vero e proprio passaggio di soluzione fisiologica lungo tutte le cavità nasali. L'irrigazione è praticamente, esistono anche qui in commercio, sono meno conosciute perché probabilmente sono più facilmente prescrivibili dallo specialista più che recarsi in farmacia e chiedere il lavaggio nasale, quindi il farmacista dà più facilmente il lavaggio nasale. L'irrigazione è proprio, come dico io ai pazienti, una piccola flebo, quindi una piccola una quantità di sostanza che è posizionata come una nuova flebo, e con praticamente una piccola sonda si appoggia agli orifizi nasali e praticamente viene eseguito sul lavandino il lavaggio, quindi il liquido, la soluzione passa dal naso, va lungo tutte le fosse nasali e poi attraverso la bocca il paziente procede all'espulsione di questa soluzione. Quindi è una vera e propria detersione, è proprio una detersione. Possiamo farla anche da soli, però. Sì, perché quando lei mi ha parlato di flebo, già anche qua il dottor Tavana si è anche un po' impressionato anche lui. Mi scusi, ma io voglio capire, se faccio questa irrigazione, ci sono anche queste specie di pompettine, come si chiamano? Queste, il liquido viene contenuto in delle fialette, no? Ecco, ma la testa va sempre indietro? No, la testa... O dritta? Sì. Per quanto riguarda questo tipo di... quelle che ci sono in commercio, quelle le pompettine, le fialette, le soluzioni, quelle che si danno soprattutto ai bambini, certo la testa deve essere posizionata, messa indietro, perché praticamente in questo modo con la forza di gravità la soluzione passa, sì, e va a irrigare, a lavare tutto il naso, però ne lava solo una parte, cioè la parte inferiore del naso, perché non la parte superiore, e quindi è giusto ed è corretto in questo modo. Invece per quanto riguarda l'irrigazione, bisogna posizionarsi in un certo modo, la testa in modo orizzontale e sul lavandino, e in questo modo viene proprio irrigato tutta la fossa nasale. È molto più efficace l'irrigazione nasale rispetto al lavaggio nasale, perché lava di più, ed è una cosa assolutamente semplicissima che si fa sia ai bambini che alle persone adulte. E la soluzione marina va bene anche per l'irrigazione? Sì, le confezioni che ci sono in commercio, perché sono assolutamente in commercio, sono proprio soluzioni fisiologiche, soluzioni marine sterilizzate ovviamente, ed è una cosa veramente estremamente semplice. Queste irrigazioni sono poco conosciute, ma sono molto efficaci, soprattutto nelle fasi più avanzate. Ecco. Allora, io e lei, professore, andremo di irrigazione, magari ci sentiamo dopo, prima e dopo, vediamo come va la nostra voce e il nostro naso. Ci irrighiamo il naso. Va bene. Buona giornata, professore, grazie. Pronto soccorso. Torniamo a parlare di menisco insieme al dottor Tavana. Che fare se si rompe? Quali sono le opzioni possibili? In parte le abbiamo già anticipate. Si toglie? Dottor Tavana, Non si toglie più. Perché quando si deve fare, normalmente è la meniscectomia selettiva, cioè si asporta solo un frammento del menisco. Questa è la chirurgia moderna, la chirurgia artroscopica. Rapportata all'atleta, questo diventa molto importante, perché avendo io vissuto un certo periodo storico, ho avuto modo di vedere gli ex giocatori o giocatori in età avanzata che avevano effettuato la cosiddetta meniscectomia non selettiva, cioè meniscectomia totale. Tolto il menisco e sì, via. Si apriva il ginocchio, quindi l'artrotomia anziché l'artroscopia, e quindi un intervento molto più aggressivo, e il risultato era ginocchia artrosici. Purtroppo vedo oggi allenatori con qualcuno ho avuto come giocatore, poi adesso come allenatore abbiamo comunque dei rapporti, che a 50 anni si trova già vicino alla protesi, e sono allenatori famosi che zoppicano, e questo è sicuramente indicativo di come un'aggressività eccessiva nel menisco non sia auspicabile. Però c'è stato un tempo in cui avevate un po' la mano veloce. Certamente. Voglio rispondere a qualche ascoltatore. Un ginocchio che scricchiola ad ogni passo in assenza di dolore può essere un segno di lesione meniscale? Ci scrive Roberto. Non necessariamente, è più probabile. Bisogna capire, Roberto, quanti anni ha innanzitutto. Potrebbe esserci anche un problema cartilagineo, non necessariamente meniscale. Tony, 35 anni, fa il caso nostro. Ho fatto il menisco interno. Mi hanno trovato un micro rottura della cartilagine. Posso fare la maratona e la palestra pesante? Tony, uno scatenato. Sì, ha già un danno cartilagineo e ha, se è stato operato, un pezzo di menisco in meno, quindi quel cuscinetto d'assorbimento del carico che diceva lei è un po' alterato, quindi è meno efficace. Anche per lui l'ideale, forse la corsa sì, ma alternata con attività in scarico, quindi vada a correre ma ogni tanto vada in bicicletta. E tenga sempre, sempre comunque il tono muscolare. Spesso chi corre dimentica di tenere il tono muscolare, e come ha detto il professor Castellacci, il tono muscolare, e lei stessa, il tono muscolare è fondamentale per stabilizzare meglio il ginocchio. Abbiamo visto, dottor Tavana, che tra gli sportivi le lesioni del menisco sono abbastanza frequenti, almeno già si mettono in conto. Ma c'è anche chi di sport ne fa poco o magari non ne fa più, che si trova improvvisamente bloccato e gioco forza si deve occupare del suo ginocchio, come il mio amico Gianluca Nicoletti, che sappiamo bene è allergico ai medici, ma per il suo menisco, anzi per i suoi menischi, ha dovuto cedere e affidarsi. Gianluca, ciao. Senti, io basta di far la cavia comunque l'ultima volta. Mi piace tanto. Vieni già sempre. Sono riuscito a bypassare la trasmissione sulla prostata. Sì, perché ho detto so che sulla prostata non lo l'avevo proposta, ma non voglio pronunciare. L'hai sentita? Vabbè, però. Ma assolutamente, quando sento parlare di prostata scappo via. Ecco, non vedi. Voglio. Siamo fatti così. Vai nell'archivio. Ma me ne guardo bene, non voglio sapere nulla. Voglio rimanere inconsapevole fino alla fine dei miei giorni. Senti. So che sono un cattivo esempio, ma io mi prendo carico di tutte le mie abiezioni. Di menisco posso dirti molto, perché è stato il mio unico problema che ho avuto di tipo chirurgico in tutta la vita. L'ho avuto due volte. E adesso, sentendo il professore, ho dei brividi lungo la schiena che mi spiego molte cose. Allora, il primo menisco lo feci una quindicina d'anni fa. Premetto, non faccio sport, non gioco a calcio, solo che ho fatto il paracadutista sportivo in gioventù e mi dicevano i vecchi: vedrai tu quando cresci ci avrai un sacco di dolore. Era vero. Un giorno mi si bloccò il ginocchio, ho tirato per quanto potuto per qualche mese e alla fine sono dovuto operarmi. Era un medico della prima generazione, approfittando anche della nostra cassa mutua, mi tenne ricoverato, mi fece anestesia totale, mi fece un'operazione mastodontica e ciclopica, e ricordo il primo menisco come qualcosa di traumatico. Il secondo menisco sono stato necessariamente obbligato a farmelo, perché mi ricordo sembrava di essere in un film, mi si chiudeva un ufficio pubblico, mancano due minuti, la distanza fra me e l'ufficio pubblico erano nemmeno 50 metri, mi si bloccò la gamba e mi trascinavo come il dottor Zivago nell'ultima scena, quando sta dietro e gli prende il colpo al cuore. E ho capito lo farmi vedere, un dottore molto più giovane, molto più esperto, mi fece una stupidaggine di operazione in ambulatorio, durò pochissimo e mi salvò. Però il primo ginocchio, quello della prima operazione fatta dal vecchio, ahimè ogni tanto mi dà dei problemi, mi fanno delle infiltrazioni di acido ialuronico, perché avrò l'artrite probabilmente, sentendo il professore, ogni tanto mi fa male. L'artrosi? L'artrosi? Boh, non so. Non mi cadere, tu che sei il mio preferito, su artrite e artrosi. Non, per me la patologia è qualcosa che non esiste, io sono immortale e sto benissimo. Eccoci, ci stiamo occupando del menisco di Gianluca Nicoletti, del menisco, mi vorrei occupare del menisco che non c'è più, so che Gianluca deve scappare, questa è un'ottima occasione dottor Tavana, perché Gianluca i medici non li vuole neanche mai sentire, gli fanno delle infiltrazioni con acido ialuronico, che cosa altro potrebbe fare? Ma innanzitutto concordo con lui sul tema prostata, anche perché la stessa visita ha delle modalità differenti rispetto alla visita di un ginocchio, per cui anche a me non ridisce abbastanza il pensiero della prostata. Detto questo, sicuramente l'acido ialuronico è un vantaggio, una risorsa che è arrivata negli ultimi anni, che ci dà una mano in quello che sarà il suo ginocchio artrosico, sarà sicuramente, perché quando è stato effettuata la meniscectomia totale qualche anno fa, inevitabilmente si arriva a questa situazione. L'acido ialuronico sì, poi assolutamente è importante tenere il tono muscolare vivo, con delle esercitazioni ovviamente non troppo stressanti, quindi non mi devo mettere sulle spalle 120 kg e salire su e giù, che ci riesco giusto due o tre volte perché è un peso eccessivo, ma evitare i carichi eccessivi, quindi rinforzare il muscolo senza usare dei carichi eccessivi e dell'esercizio in scarico, cioè la bicicletta ad esempio ogni tanto farebbe del bene al suo ginocchio. Anche la cyclette? Assolutamente sì. Gianluca, aspetta la signorina. No, io penso, ascoltando adesso il professore, che in realtà il secondo menisco me lo sono rotto proprio andando in palestra per avere un fisico tonico e scattante. Facevo fino a un anno fa molte macchine in palestra, avevo un personal trainer, ma penso con quella macchina per fare gambe e polpacci, penso adesso me l'ho rotto lì il secondo menisco, immagino. Ma è possibile, dipende anche qui dal carico e dal gesto tecnico. Per esempio le macchine da palestra si usa normalmente un certo accorgimento su persone che non hanno delle esigenze particolari, utilizzando degli angoli ridotti proprio per evitare di andare a sovraccaricare il menisco. Ma infatti mi disse la persona che mi seguiva, potevi dirmi che avevi dei problemi al menisco, ti avrei fatto fare un altro esercizio. Gli davo sotto come un disperato e quindi probabilmente me lo sono rotto lì, pazienza. Gianluca, grazie per essere stato con noi. Sono riuscita a farti parlare con un medico. Parlo molto, ho molti amici medici, solo che tengo contatti su altri temi che non siano il mio corpo. Un bacio a Gianluca Nicoletti, grazie. Ciao. E andiamo invece a Nicoletta, che ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Che nome magnifico. Lei deve essere una persona molto simpatica. Lo dico sempre anch'io a tutte le Nicolette che incontro. Allora, Nicoletta, che cosa capita al suo ginocchio? Allora, al mio ginocchio è capitato che in pieno benessere si sia gonfiato. Ho fatto una risonanza e mi hanno detto che il menisco non era lesionato, ma era lievemente uscito dalla sua sede. Ho fatto delle manipolazioni da una fisiatra e... sono riuscita poi a ricaricare entrambe le ginocchia, anzi il ginocchio sinistro e il menisco interno del ginocchio sinistro di cui sto parlando. Adesso io sto bene, però essendo una sciatrice accanita, l'anno scorso io sono dovuta restare ferma. Volevo sapere se posso riprendere e in che modo posso prepararmi al meglio onde evitare problemi. Certo. L'ortopedico che avevo consultato mi aveva detto: no, guarda, è ritornato tutto nella norma, non occorre operarlo. Dottor Tavana, può anche uscire di posto, di sede il menisco? Direi abbastanza raro e poco frequente come tipo di infortunio. Certamente in questo caso il gonfiore fa pensare che qualcosa sia successo. Una sublussazione, perché la lussazione pretende una perdita permanente dei rapporti articolari, quindi semmai una sublussazione. È rarissimo, perché il menisco ha una sua funzione stabilizzante in quanto è attaccato, agganciato alle superfici delle ossa, quindi è raro che sia così ipermobile. Quindi Nicoletta la mandiamo sulle piste. Ecco, la seconda domanda che a me sembra prema di più a Nicoletta è giusto porsela. Guardi, sì, lo sci va bene, soprattutto le tecniche dello sci attuale, cioè le tecniche moderne di sci, lo sci un po' sciancrato che si utilizza adesso ci concede molto più rispetto a prima. Però è fondamentale che lei allo sci, quindi alla neve, arrivi con una muscolatura adeguata, che deve essere ancora più adeguata rispetto alla sua situazione precedente, perché altrimenti rischia di incorrere quantomeno in un'infiammazione del ginocchio. Quindi lavorare in palestra in maniera adeguata ad angoli ridotti, tonificando molto i muscoli. Lei, Nicoletta Carbone, ha detto una cosa fondamentale: il muscolo protegge l'articolazione del ginocchio. Ce lo dimentichiamo. Oggi l'uomo, inevitabilmente, rispetto a 50 anni fa, per gli altri millenni che ci hanno preceduto, tonifica meno il muscolo perché ha tutti gli strumenti, se vuole, per neanche camminare, tra ascensori e autovetture, e quindi abbiamo perso una risorsa importante e noi dobbiamo assolutamente recuperarla. Andiamo a Mauro, che ci chiama da Roma. Mauro, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Ci racconti. Allora, io ho fatto la meniscectomia selettiva in artroscopia 8 anni fa. Poi, attualmente, gioco a tennis 2 volte a settimana, corro 1 volta a settimana e spero mi faccio la settimana bianca. Non si toglie nulla, eh? Mauro. Però soprattutto mi piacciono tutti gli sport traumatici per il ginocchio. Quindi volevo chiedere al dottor Tarana cosa posso fare per migliorare la manutenzione. Normalmente non ho grossi problemi, posso avere problemi di dolore o di gonfiore se per esempio faccio un torneo di tennis amatoriale e quindi le partite durano un po' di più, oppure nell'accovacciamento, nella cosiddetta posizione di squat. Mi hanno consigliato di irrobustire ulteriormente il quadricipite in isometria, oppure fare anche in questo caso le infiltrazioni di acido ialuronico. Volevo sapere la sua opinione. Grazie Mauro. Dottor Tavana, molto tecnico il nostro amico Mauro. Sì, però non mi ha detto se menisco interno o laterale. Mauro? Menisco interno o esterno? L'esterno. Allora, intanto mi viene subito da chiederle, un po' forse qualche criterio per capirlo ce l'ha detto già il professore Castellacci, ma esterno o interno, qual è il menisco che ci potrebbe dare più problemi? Assolutamente il menisco laterale. Pensate che su un calciatore professionista si ritorna al gioco del calcio dopo una meniscectomia selettiva al menisco interno, dopo, quando va male, 30 giorni. Per il menisco esterno oggi si dice chiaramente aspetta 2 mesi prima di riprendere l'attività calcistica, e la dice lunga su quello che è la prospettiva, cioè levare un pezzo di menisco esterno che peraltro si sobbarca un carico maggiore nella vita normale rispetto al menisco interno implica molto spesso un danno cartilagineo maggiore. Quindi lei ha già una possibilità di artrosi. Non prenda questa parola con le pinze, ovviamente, non come un fatto drammatico. Però quello che lei mi dice è abbastanza frequente. Lei utilizza la sua forza, ma non l'allena mai. Prima di tutto non deve pensare solo al quadricipite, ma anche ai flessori della coscia, quindi i muscoli che stanno nella parte posteriore della coscia, perché sono quelli che stabilizzano ulteriormente il ginocchio, se no creerebbe una discrepanza di forza. E lì come si allenano? Usando, flessori? Per esempio, in palestra c'è quella macchina che si chiama Leg Curl, che chi frequenta le palestre conosce bene, in pratica una macchina specifica per i muscoli posteriori della coscia. Sì. Ma chi ha subito una meniscectomia laterale, indipendentemente che abbia 20 anni o 40, indipendentemente che sia uno sportivo di alto livello o un amatoriale, deve assolutamente mantenere il tono muscolare. Deve considerare di avere come se avessimo un pneumatico con una valvola che perde un po'. Ecco, noi abbiamo perso un pezzo di menisco e quindi qualcosa manca, questa valvola dell'autopneumatico si sgonfia leggermente più che non quella del pneumatico normale, noi dobbiamo una volta alla settimana andare a controllare la pressione del pneumatico. Esattamente dobbiamo fare la stessa cosa per il nostro ginocchio. Lei fa 3 sedute di allenamento alla settimana, in nessuna di queste 3 lei migliora il tono muscolare in maniera importante e soprattutto specifica. Cerchi o una quarta volta oppure rinuncia a una terza e vada in palestra e tonifichi il muscolo. Questo per la salvaguardia del suo ginocchio anche nel futuro. Questa cosa del pneumatico è geniale, trovo. Allora, io voglio salutare il prossimo ospite, che è il professor Paolo Cherubino. Buongiorno, professore. Buongiorno. Gli ascoltatori. Direttore della clinica ortopedica dell'Università all'Ospedale di Circolo di Varese. Professor Cherubino, io con lei vorrei parlare di protesi di menisco, anche se so che protesi è un termine un po' improprio. Confermo, il termine è assolutamente improprio. Bocciata, perché... però già sapevo. Rimandata. Già sapevo come... Allora, come possiamo chiamarli? Sostituti? Esatto, direi che è meglio parlare di sostituti meniscali. Si parte da un concetto che il Padre Eterno ha fabbricato i menischi nel ginocchio perché servono a qualcosa. L'asportazione totale o parziale del menisco comporta nel tempo dei guai, prima di tutto l'artrosi, sì, specialmente se il ginocchio non è perfettamente dritto, ma il ginocchio già tendenzialmente, diciamo, di natura è un po' storto, diciamo la pecosbil oppure fatto a X. In questa situazione il portar via il menisco toglie un ammortizzatore naturale all'articolazione e ovviamente determina un sovraccarico della cartilagine che può innescare quel processo che appunto è l'evoluzione artrosica. Ora, la cosa fondamentale da tenere presente è che gli ortopedici non sono stati creati per togliere i menischi a tutti. Un tempo, quando io ero giovane, l'asportazione del menisco era assolutamente mandatoria e bisognava portare via tutto il menisco. Quando poi si è capito che più menisco si toglie, peggiore l'evoluzione verso l'artrosi, allora è nata la tecnica cosiddetta artroscopica di cui si è sentito parlare e si sente parlare in continuazione, cioè praticamente invece di fare un taglio si fanno dei buchetti, invece di togliere tutto il menisco si toglie soltanto la parte del menisco rovinata. Ora è chiaro che anche così facendo però ci sono delle situazioni in cui questa parte rovinata del menisco è piuttosto grande. Allora, per cercare di ridurre, specialmente nei soggetti giovani ovviamente, i rischi di un'evoluzione verso l'artrosi, per cercare di ridurre un carico, cioè un peso eccessivo sul ginocchio, si deve cercare qualche cosa che faccia le funzioni del menisco. Ora, come dicevo, col termine protesi noi intendiamo piuttosto un qualche cosa che sostituisce, però che è fatto con un materiale inerte, che può essere tollerato dall'organismo, ma non è un materiale che viene a essere integrato nell'organismo. Ecco perché lo chiamiamo piuttosto sostituti meniscali, di cui esistono due grosse famiglie. Una famiglia sono i menischi prelevati dal cadavere, sì, che poi vengono suturati al posto del menisco che non c'è più. Diciamo che questo è facile da dire, ma è meno facile da non tanto da praticare da un punto di vista tecnico, quanto piuttosto è più complesso ottenere una riabilitazione al menisco. Cosa vuol dire? È più complesso ottenere che l'organismo di un individuo nel tempo riconosca come suo un menisco prelevato dal cadavere. Insomma, lo accetti. Diciamo lo accetti. E questo perché il menisco è una struttura priva di vasi nella sua grande maggioranza. Circa 2/3 del menisco non ha vasi. Non essendoci vasi, non c'è la possibilità nel menisco prelevato dal cadavere che ci sia proprio questa accettazione, cioè che l'organismo lo faccia suo. L'altra grossa famiglia di sostituti meniscali è prodotto di ingegneria tissutale, cioè cosa vuol dire? Che vengono isolate delle sostanze, dei materiali di ordine che sono di solito delle proteine, diciamo, che vengono trattate in una determinata maniera, in modo da non dare un rigetto, sì, tanto per intendersi. Questi vengono disegnati in modo da far finta di essere un menisco, vengono suturati al posto del menisco e così facendo il nostro organismo nel tempo permette a alcuni vasi di riabitare questi materiali, questi sostituti meniscali, e nel tempo di fabbricare una struttura simile a quella del menisco che non c'era più. Magnifico, dottor Tavana, che dice? Beh, mi sembrano delle innovazioni importanti, pensiamo soprattutto a un atleta giovane costretto a una mescettomia selettiva con una prospettiva futura di degenerazione di questo ginocchio. Mi scusi, professor Cherubino, io posso fare questo sostituto del menisco anche a distanza di anni? Mi hanno tolto il menisco, per dire, 10 anni fa e faccio questo sostituto? Allora, il discorso è assolutamente, la risposta è sì. Sì? Dipende dalle condizioni del ginocchio. Mm. Allora, se lei ha avuto una meniscectomia X numero di anni fa, sì, e il suo menisco, il suo ginocchio è artrosico, non ne parliamo. No. Perché il discorso non siamo in condizioni di farlo accettare da parte dell'organismo. Se il suo ginocchio le dà dei problemi, per esempio, diceva prima giustamente il dottor Tavana, delle grosse complicanze all'asportazione del menisco esterno e delle minori, ma peraltro più frequenti, situazioni di asportazione del menisco interno, cioè del menisco mediale, se dicevamo il suo ginocchio è un ginocchio che ha dei dolori da sovraccarico, sì, nella parte di ginocchio che è stata operata di meniscectomia, e le condizioni radiografiche e cliniche non sono quella di una grave artrosi, allora l'intervento ha senso. Oh, magnifico. Purché, però, bisogna aggiungere un purché. E il purché è l'asse del ginocchio sia un asse giusto, sì, in altri termini. Le gambe dritte. Brava. Se io ho la gamba e faccio concorrenza a Pecosbill, tanto per intendersi, ecco, e su un ginocchio come questo voglio mettere nella parte interna uno di questi sostituti meniscali, è chiaro che il movimento, che è abbastanza complesso, e il carico, cioè il peso che noi diamo sulla parte interna del ginocchio, mi distrugge il sostituto meniscale prima che questo possa essere riabitato, cioè diventato vitale. Chiarissimo, quindi insomma chi nasce con le gambe dritte volendo è anche un pochino più fortunato, professore. Ma, assolutamente. Lo è sempre anche non in questa condizione. Non solo le ragazze da un punto di vista estetico, diciamo. No, ecco. Anche gli ometti da un punto di vista funzionale. Grazie professor Cherubino per essere stato con noi e soprattutto per la sua chiarezza. Grazie. Andiamo subito, velocemente, da Gianni da Bolzano. Buongiorno Gianni. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Che succede? Ma succede che in aprile, maggio, mi sono rotto il menisco, quello mediale. Ho aspettato però ad operarmi, in quanto non era chiarissimo, appena un mese e mezzo fa. Sì. Ho fatto l'artroscopia, mi è stata fatta una resezione appunto del menisco. Purtroppo nel frattempo, infatti forse questo non è stato detto in trasmissione, che se non ci si opera magari immediatamente o quasi, possono subentrare delle complicazioni. Nel mio caso, ad esempio, le cisti di Becker, che probabilmente il dottor Tavana conosce, mi si sono formate. È vero, dottor Tavana, Gianni aspettando è andato incontro a questo inconveniente, frequente o è stato un po' sfortunato Gianni? Bah, un po' di sfortuna sicuramente, però dopo i 18 anni le cisti di Becker, qua, nella maggior parte dei casi avvengono per una lesione meniscale, cioè non avvengono spontaneamente. Prima di 18 anni invece si possono avere le cisti di Becker, che tra l'altro sono praticamente delle cisti, quindi dei rigonfiamenti nella porzione posteriore del ginocchio. Fastidiose. Gianni, e questo? Talmente fastidiose che circa 4-5 giorni fa le ho fatte asportare chirurgicamente. Adesso sono a casa dopo appena un mese e mezzo dall'operazione, di nuovo congesso e con un bel po' di punti di sutura. Volevo capire che tempi di recupero ci sono, se posso tornare in tempi più o meno rapidi all'attività sportiva. Sì, è abbastanza difficile esprimere un'opinione così a distanza. Tenga presente che la via d'accesso posteriore alle cisti di Becker è una via complessa, è una via problematica e quindi richiede comunque del tempo e molta prudenza nella sua ripresa sportiva. Stupisce che nonostante la meniscectomia selettiva sia stato necessario operare anche le cisti di Becker, per carità, capita e se ne prende atto. Però, insomma, però allora noi, per risollevarci l'animo, io non so se il dottor Tavana è come se la cava i fornelli. No, beh, ho vissuto tanto in parte della mia vita da solo, quindi beh, so farmi da mangiare. E comunque impara l'arte, mettila da parte. Gli uomini che sanno muoversi in cucina hanno sempre una marcia in più, un po' di fascino in più. Vogliamo da Romana Bosco, maestra di cucina e della scuola di cucina Il Melograno di Torino. Signora Bosco, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Io devo dire che sono fuori tempo e sono già di cartellino rosso. Però lei, anzi sì. Allora, lei ieri ci ha dato una cosa importante per la pasta: mettere il parmigiano o il formaggio che vogliamo, grana, quello pecorino, subito dopo aver scolato la pasta. Questo permette al formaggio di aderire bene alla pasta e di raccogliere meglio il sugo. Ha un altro trucchetto rapido che ci faccia esaltare il sapore della pasta di questo tipo? Perché noi sul sito mettiamo la ricetta di oggi suggerita da Romana Bosco, che sono i ditaloni con funghi e patate. Ma un altro trucchetto? Un altro trucchetto è quello di frullare parmigiano o grana padano, quello che è, con delle erbe aromatiche. Molto bene il prezzemolo, molto bene il basilico, otteniamo del formaggio di un verde intenso, profumatissimo. Invece di usare un semplice solo il formaggio, usiamo questo formaggio alle erbe. Quindi sapore e colore. E noi ci sentiamo domani con Romana Bosco. Grazie signora Bosco per essere stata con noi. Grazie a voi. Dottor Tavana, grazie. I complimenti arrivano anche dai nostri ascoltatori, rimasti molto stupiti dal fatto che lei abbia detto di allenare finalmente, scrivono, i muscoli, quelli dietro della coscia. Devo andare perché sono fuorissima. Dottor Tavana, grazie. Io vi aspetto domani. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone.